a note on my mind. I'm thinking about you. Achille Melchionda è un avvocato penalista che vive e lavora a Bologna. La sua esperienza nelle aule di giustizia è lunga e negli anni ha affrontato casi che abbracciano terrorismo, sequestri di persona degli anni 80, delitti che hanno fatto scalpore, come quello di Francesca Linovi, la docente del DAMS assassinata nel 1983 con 47 coltellate. Alcuni di questi casi li ha ricostruiti all'interno di libri che raccontano le singole vicende e da poche settimane è uscito un nuovo capitolo, pubblicato, come la maggior parte dei precedenti, dalla casa editrice Pendragon. È dunque di solo Dio può giudicare che si occupa questa volta a parole in breve. Si tratta di una vicenda che risale all'autunno del 1974 e che ruota intorno a Giacomina Allocca, una stimata pediatra bolognese che nella notte tra il 21 e il 22 ottobre uccise il padre e la sorella, entrambi gravemente ammalati, e che poi tentò di togliersi la vita. All'apparenza si tratta di un caso di cronaca nera, un dramma familiare che rompe attraverso le prime agenzie di stampa che riportano la notizia. Ma quasi subito si fa strada un ulteriore elemento a corredo della storia, elemento che aggiunge la stessa pediatra al momento dell'arresto. A fronte del dramma della follia di cui parlano i giornali, la dottoressa Allocca sostiene: eutanasia è stata un'eutanasia, scrivetelo, eutanasia. Ed ecco che inizia ad articolarsi un dibattito molto poco noto agli organi di informazione del tempo, quello legato alla dolce morte, alla scelta di andarsene e all'autodeterminazione. Un'autodeterminazione che, nel caso bolognese del 1974, non c'è stata da parte delle vittime. Ma come dichiarerà Giacomina Allocca ai magistrati, prendo atto che quanto da me compiuto è contrario alle leggi dello Stato. Me ne rendo conto e dichiaro che è contrario anche ai principi per me superiori, dato che sono cattolica osservante. Ritengo però di avere delle scusanti, visto che dovevano soffrire senza possibilità di ritorno. Delirio acuto sarà la conclusione a cui giungono le prime indagini e per la pediatra si apriranno le porte del manicomio giudiziario di Castiglione delle Stiviere. Qui Giacomina trascorre le prime settimane in stato di shock, ma con il tempo sembra riprendersi, inizia a elaborare il suo gesto e si sottopone a una perizia psichiatrica che dovrà stabilire la sua capacità di intendere e volere. Tuttavia, in attesa dell'esito, non ce la fa più e pochi mesi dopo il ricovero decide di porre fine anche alla sua esistenza. Achille Melchionda, ricostruendo una vicenda familiare devastata dalla malattia e da lutti mai elaborati, senza cadere mai nella retorica né formulare giudizi dettati da morale o credenze religiose, scrive: «I vivi possono etichettare, qualificare, ascrivere a categorie ideali, filosofiche o esoteriche, questi gesti fatali. Soltanto i vivi possono inquadrarli in qualche forma dialettica per riconoscere una qualche legittimazione al cosiddetto diritto di morte dignitosa. È evidente però che ogni sforzo inteso a calibrare un potenziale impunibile diritto di morire non sconfiggerà mai quello che si identifica nell'atto di privarsi della vita. Sta di fatto che gli uomini non saranno mai in grado di dare un giudizio valido e Giacomina infatti si è sottratta al giudizio degli uomini, ha voluto sottoporsi soltanto a quello di Dio». E sulle note di Exploding Blue dei Dada Waterman si chiude questo racconto amaro, un racconto che invita soprattutto a riaprire un dibattito al di là dei clamori della cronaca.